Sezione 8. Di nuove odi barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione in LibriVox. Tutte le registrazioni in LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Per la morte di Napoleone Eugenio. Questo la inconscia Zagalia Barbara prostrò, spegnendo gli occhi di fulgida vita sorrisi dai fantasmi fluttuanti nell'azzurro immenso. L'altro di baci sazio in austriache piume, e sognante sull'albe gelide, le diane e il rullo pugnace, piegò come pallido giacinto. Ambi alle madri lunge, e le morbide chiome fiorenti di puerizia pareano aspettare anche il solco della materna carezza. Invece balzar nel buio, giovenette anime, senza conforti, né dalla patria l'eloquio seguivali al passo coi suon dell'amore e della gloria. Non questo, o fosco figlio d'Ortensia, non questo avevi promesso al parvolo, gli pregasti in faccia a Parigi lontani i fati del re di Roma. Vittoria e pace da Sebastopoli sopian col rombo dell'ali candide il piccolo, Europa ammirava, la colonna splendea come un faro. Ma di dicembre, ma di brumaio, cruento il fango, la nebbia è perfida. Non crescono arbusti a quell'aure, o dan frutti di cenere e tosco. Oh, solitaria casa d'aiaccio, cu verdi grandi le querci ombreggiano, e i poggi coronan sereni, e davanti le risuone il mare. Ivi Letizia, bel nome italico, che ormai sventura suona nei secoli, fu sposa, fu madre felice, ahi, troppo breve stagione. Ed ivi, lanciata ai troni l'ultima folgore, date concordi leggi fra i popoli, dovevi, o consol, ritrarti fra il mare e Dio cui tu credevi. Domestica ombra, Letizia, or abita la vuota casa, non lei di Cesare il raggio precinse, la corsa madre visse fra le tombe e l'are. Il suo fatale dagli occhi d'aquila, le figlie come l'aurora splendide, frementi speranze i nipoti, tutti giacquer, tutti a lei lontano. Sta nella notte la corsa niobe, sta sulla porta donde al battesimo le usciano i figli, e le braccia fiera tende sul selvaggio mare. E chiama, chiama, se dall'Americhe, se di Britannia, se dall'arsa Africa, alcun di sua tragica prole, spinto da morte, le approdi in seno. Fine di sezione 8.